Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di supercalcolo, supercalcolo che è un settore strategico considerato tale senz'altro dall'Unione Europea, che sta cominciando a interessarsi in modo più diretto, diciamo, a questa tematica. È strategico perché, per le ragioni che abbiamo spiegato nella puntata di ieri, perché il supercalcolo consente di effettuare simulazioni in moltissimi settori, nei quali fare simulazioni vuol dire poi risparmiare in termini di sperimentazione, poter inventare e mettere a punto nuovi materiali. E per parlarci di questa nuova iniziativa, diciamo, dell'Unione Europea, abbiamo in linea Elisa Molinari dell'Istituto Nanoscienze del CNR e dell'Università di Modena. Buonasera, bentornata. Buonasera. Allora Molinari, che cos'è High Performance Computing, o meglio, che cos'è Euro High Performance Computer, questa nuova iniziativa che sta cominciando a prendere vita? High Performance Computing è quello che si chiama supercalcolo. Certo. L'iniziativa Euro High Performance Computing è un'iniziativa recente, lanciata per ora da 8 paesi europei, ma il numero si sta allargando e si prevede che possa diventare un'iniziativa dell'intera Unione Europea, che vuole fare del supercalcolo europeo un obiettivo molto importante, sia in termini di rendere disponibili il supercalcolo europeo agli scienziati, ai ricercatori, alle imprese che lo vorranno usare, sia anche nella direzione di sviluppare la produzione di un supercalcolatore europeo. Fino ad ora l'Europa aveva in qualche modo sostenuto l'accesso al supercalcolo, che veniva però finanziato da alcuni paesi, e l'idea è che le sfide per arrivare alla scala futura, quella che si chiama exascala, almeno 100 volte più performante di quella attuale, sia in termini di dati che in termini di calcolo, ebbene questa sfida richiede molto di più che non lo sforzo dei singoli paesi, specialmente se si vuole, come ora l'Europa sta decidendo, se si vuole far parte della sfida tecnologica anche in termini di sviluppo dei supercalcolatori. Insomma, Molinari, c'è un aspetto anche industriale legato a questa iniziativa europea? Ah certo, l'idea di sviluppare in Europa un supercalcolatore europeo, quindi le tecnologie sviluppate qui, la proprietà intellettuale che rimanga qui, vuol dire di partecipare a un'impresa che è molto ambiziosa, come pensare di lavorare in Formula 1, però avendo in mente di perseguire tecnologie che hanno impatto anche molto più ampio che non sui supercalcolatori. Certo, sappiamo quante tecnologie nel mondo automobilistico sono state sviluppate la prima volta proprio per la Formula 1, questo è successo molto spesso. Senta, che cosa si pensa di studiare? Quali saranno gli ambiti su cui verranno applicati questi computer molto più potenti degli attuali? Ma dal punto di vista scientifico ci sono dei settori in cui è già chiaro che farà accedere a questa nuova scala farà una differenza. Uno è ad esempio la simulazione delle proprietà di clima e meteo, diciamo, in generale, che dovrebbero raggiungere una scala di dettaglio anche spaziale tale da consentire predizioni molto più accurate anche a lungo termine, e su questo l'Europa è certamente alla frontiera. Sembra che siano temi di pura scienza, ma in realtà le implicazioni per i cambiamenti ambientali e climatici locali cominceranno ad avere un impatto così importante anche sull'agricoltura, ma anche sulla nostra vita di tutti i giorni, che disporre di queste tecnologie farà veramente farà la differenza. Certo. Un altro ambito è quello dello studio dei materiali, ne abbiamo parlato abbondantemente ieri, certo, anche materiali speciali. Di cui ci occupiamo direttamente, certo. e pensiamo davvero che in questo settore il calcolo alla exascala consenta veramente di prevedere nuovi materiali. Questo è considerato un altro dei settori in cui l'Europa e fortunatamente l'Italia sono veramente all'avanguardia nel mondo. Senta, in questa partita quale può essere il ruolo dell'Italia? Come siamo messi? Che partita possiamo giocare a nostra volta? Ma l'Italia per fortuna è messa abbastanza bene nella disponibilità di supercalcolo. Il Cineca è uno dei 4 principali centri di supercalcolo europei ed è certamente al passo con tutti gli altri. Io credo che un ruolo molto importante lo potremo giocare grazie al fatto che siamo riconosciuti essere molto bravi nello sviluppo dei codici, delle applicazioni. Del software, certo. Cioè il software di simulazione, per esempio. Cose, e questo aspetto del software, che appunto è importante per poter descrivere i materiali e altre cose, ma sarà sempre più importante anche per lo sviluppo delle tecnologie di supercalcolo, perché un supercalcolo che superi le limitazioni in termini energetici si può ottenere solo progettando insieme l'hardware e il software in maniera energy consapevole in termini energetici, quello che si chiama co-design, che è considerato uno dei punti di forza su cui l'Europa potrebbe far leva per gli sviluppi futuri. È un paradigma questo di hardware e software che tendono ad andare sempre più a braccetto, che abbiamo già visto per esempio nel mondo dei videogiochi. Certo, in effetti abbiamo alcune tecnologie che vengono proprio dai videogiochi, gli acceleratori che accompagnano molti dei nostri processori e ci aiutano adesso nel supercalcolo sono proprio stati sviluppati in quel mondo là. Grazie Elisa Molinari. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata a voi tutti.